Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio, di nuovo in incursione fuori orario completamente a caso, però è quasi successo le feste, tanto ormai, cioè durante le feste tutti hanno registrato le loro repliche, allora io mi fo le dirette quando mi pare e oggi potevo e allora ho deciso perché registrare e mandare una cosa domani quando posso fare una diretta oggi? Così. E quindi io faccio la diretta la domenica pomeriggio e la rimando in replica poi nei giorni delle repliche, pure domani quando dovrei avere la trasmissione per davvero. E quest'oggi, di nuovo sarà una puntatina con qualche notiziola e molto veloce veloce, massimo una mezz'oretta, so così le puntate delle feste e sono così anche voi tanto siete occupati a magnare e a difendervi dal gelo e quindi non è che ci avete tempo per stare davanti ai monitor, mi auguro. Poi non lo so che vita fate, magari siete una vita triste come la mia e avete tempo per passare la vita davanti ai monitor, non lo so. E comunque, tant'è, oggi volevo riprendere alcune cosine che sono accadute in realtà intorno al 10-20 e mi hanno abbastanza fatto ridere. In particolare c'è questo mio eroe ormai tale Sandbox Escaper, che è un tale che vi avevo già citato qualche mese fa perché aveva rilasciato un proof of concept, un exploit per Windows, uno zero day, quindi l'aveva rilasciato su Twitter in questo modo di rilascio degli exploit. Vecchio stile, cioè prima che iniziasse tutta questa menata e questa retorica su l'ethical hacking e il rilascio, diciamo, conscious, eccetera, eccetera, uno o gli esploit ce l'aveva se li teneva, oppure se li diceva e basta. E lui riprende questa roba qua e ogni tanto butta fuori questi zero day per Windows che non tenta di vendere a nessuno, semplicemente li piglia, butta le robe su Twitter, gli trova un posticino su GitHub finché non glielo cancellano e poi si spera che nel frattempo tanta gente l'abbia scaricato e se lo ricarichi e questo è tutto quello che fa. A me questa cosa mi sta simpatica, nel senso che non ho mai compreso veramente perché uno dovrebbe, per qualche balzana etica a me incomprensibile, lavorare gratis per la Microsoft o per chi che sia, tendenzialmente, e quindi perché se scopro un bug dovrei prima dirlo a te. Cioè io lo pubblico e lo dico a tutti, se poi sei svelto arriverà anche a te. E questo è quanto. Almeno da come la vedo io, penso che il ragionamento di chi sponsorizza invece questa pratica è perché poi i bug rimane, diciamo, i computer degli utenti sono esposti a tutta una serie di problematiche, no? Finché il sistema operativo, la casa di produzione del sistema operativo, non rilascia l'eventuale patch, e quindi alla fine ci va a discapito l'utente. Però a me è un ragionamento che non convince per nulla, francamente, perché comunque la Microsoft ha come suo core business quella cosa lì, cioè se non scrivono bene il codice, poi non è che si può dare la colpa a chi trova gli eventuali bug se non glieli segnala a prima a loro. Cioè non è che sei un ente benefico e lavori per il popolo. E quindi secondo me questo rilascio un po' caotico e ludico e giocoso di eventuali bug riporta questo che boh, per molti è una questione di soldi, ma è anche una roba giocosa e ludica, cioè giocare, no? L'hacking è un gioco, almeno per me dovrebbe esserlo, e questa cosa di buttare in questo gioco questi pezzi di codice che poi si traducono in proof of concept per Zero Day, sinora ne ha postati solo per Windows, questo Sandbox Escaper, e a me boh, mi piace, perché boh, non so perché, mi piace di più di tutta quella finta retorica sull'ethical hacking, eccetera, che mi sembra molto ipocrita come qualcuno infatti fa notare ogni tanto quelli che si dicono ethical hacking e abbracciano questa filosofia di vita come della specie di guru, sono poi quelli che boh, fanno le peggio cose in combutta con tutta una serie di personaggi. E quindi boh, è un po' strana questa dimensione etica in cui il termine etico è completamente avulso da un significato e sostanzialmente cioè avulso proprio dal significato filosofico di etica e di morale non si capisce, cioè perché l'etica di per sé non vuol dire niente, o mi spieghi qual è questa tua etica o se no dirmi io sono etico e boh, sì. Un po' tutti abbiamo una. Cioè, me la dici qual è questa etica, la rendi, ma fregiarti che tu sei etico, come dire, se l'ethical hacking è quello buono, dicevo, ma sono tutti concetti che non si capiscono. Cioè, che vuol dire buono, cattivo, etico, non etico? E lì devi esplicitare, devi fare uno sforzo. Questo sforzo non viene fatto essenzialmente perché è un termine di comodo, spendibile in più ambiti, e così è come la penso. Comunque, sulla pagina poi di Radio Wombat metterò i consueti link anche a questo exploit dove cioè, scusate il colpo di tosse. C'è anche peraltro un articoletto molto interessante a Corredo di. Diciamo di questo di questo Zero Day, mi ero un po' intortato, scusate, a leggere lo schermo, che un pochino ve lo spiega, se no potete anche guardarvi il codice, comunque tendenzialmente riguarda una funzione di Windows che si chiama MSI Advertise Product, sì. Quindi è una roba che ha a che fare con dei pop-up, credo, comunque degli advertise, qualcosa che i prodotti possono aprire nel momento in cui si installano. E però questa particolare funzione ha il potere di scrivere nel registry e anche di registrare alcune chiavi e di conseguenza gira con dei privilegi che sono elevati. Almeno in alcuni suoi pezzi di codice. Siccome non fa una validazione dell'input abbastanza precisa e sistematica, quello che succede è che viene possibile forzarla leggendo dei file con i privilegi dell'utente system che sostanzialmente può andare a ravanare nel file system un po' come gli pare. Siccome molti file stanno in percorsi prefissati e uno va abbastanza botta sicura che saranno lì, questo rende possibile sostanzialmente forzare un installer a leggere qualsiasi tipo di file e quindi poi anche spedirlo a qualcuno che sta lì in attesa. E quindi nulla, vi lascio un altro po' di musica intanto che preparo la seconda notizia, che sarà sempre un po' acarosa. Poi invece per la fine mi ero riservato un articoletto trovato su Internazionale che è un po' più di senso, anche fin troppo, nel senso che in realtà è un articolo che parla di antropologia, ma secondo me è qualcosa di interessante da applicare anche al mondo della tecnica. With you. A chiosa, che mi ero dimenticato della notizia di prima, che riguardava appunto questo rilascio di un exploit Zero Day per Windows, era giusto successo il giorno prima che la Microsoft avesse dovuto rilasciare al volo una patch per Internet Explorer, perché si erano sostanzialmente accorti che in giro per l'internet veniva sfruttato un exploit non meglio identificato, ma che riguarda il linguaggio di scripting. Allora, riguarda precisamente la componente JScript del browser Internet Explorer, e quindi è sfruttabile da tutto quello che in qualche modo se la embedda. Cioè, quindi la puoi sfruttare o inducendo la vittima a cliccare su un particolare documento HTML, ma anche attraverso l'apertura di un documento Office, un PDF o altri documenti che comunque supportino questo IE scripting, cioè insomma il linguaggio di scripting di Internet Explorer. Questa cosa è interessante perché appunto accade esattamente il giorno prima del rilascio dell'exploit Zero Day da parte di quel tizio che vi ho, insomma, di cui vi ho narrato prima. E la cosa buffa per me è appunto questa cosa, che sono dovuti correre ai ripari. Tra l'altro per spiegarvi la differenza degli approcci, no? Nel senso che è vero che quell'altro ha rilasciato un proof of concept che mette tutti in grado di effettuare l'attacco, però mette anche tutti in grado di capire questo attacco. Di questo attacco qua invece, quello che vi ho detto cercando negli articoletti, è tutto quello che si capisce, perché né Google, che aveva avvisato, aveva praticamente notato che era in giro questo remote code execution per Internet Explorer, e nella Microsoft hanno voluto pubblicare i dettagli riguardo a questo bug. E quindi sostanzialmente io non lo so spiegare tecnicamente più di così. È un approccio che si attua spesso, questo, cioè di mantenere nascosti i dettagli di un bug anche per sempre, sostanzialmente. Alcuni lo fanno tipo per 6 mesi, dopo 6 mesi pubblicano, lo rilasciano e via così. È un approccio che, diciamo, è molto pragmatico e utile per le aziende, perché rilasciano una patch, non ti devono spiegare niente, fanno upgrade, vai. È molto poco utile nei termini di comprensione della tecnologia, perché non mi permette di capire i problemi, posto che a uno interessi, però ad esempio a me interessa, e questa cosa qua non mi permette di avere il controllo su quella tecnologia. Si potrebbe anche fare un discorso più ampio, volendo parlare di massimi sistemi, visto che poi parleremo anche di quelli verso la fine della puntata. Si potrebbe fare un discorso anche più ampio, nel senso che non è una mera esigenza di saziare la mia malsana conoscenza di voler capire queste cose, no? Cioè, se fosse solo per me, chi se ne frega. Cioè, è proprio un problema di controllo totale dal basso delle tecnologie. Cioè, la Microsoft rilascia delle cose e tu te le pigli come sono. Google ti dà un servizio e tu te lo pigli com'è. Cioè, tutto dipende da loro, non c'è la possibilità di comprensione di quello che fanno nel momento in cui se la giocano solo tra di loro. Quindi avere questa possibilità è interessante. In questo senso, ancora di più, a me mi fa simpatia quello che rilascia lo Zero Day così a caso, sull'internet, senza preoccuparsi di avvisare prima l'azienda, perché l'azienda non cioè non fa niente per me, al di là di un servizio che gli torna utile. Non capisco perché io dovrei fare qualcosa per loro. Cioè, è la risposta a questa forma di chiusura che c'è da una parte, secondo me, è esattamente. Cioè, è molto comprensibile, e invece quell'altro che dice, vabbè, allora io lo rilascio, non dico niente a nessuno, e così, e mi diverto a fare diciamo, a scrivere questo codice, e poi mi beo di rilasciarlo sull'internet, e sostanzialmente siamo pari, perché dall'altra parte l'atteggiamento è sostanzialmente identico, con la differenza che lì abbiamo un singolo e dall'altra parte abbiamo un'organizzazione multimiliardaria. E quindi dal mio punto di vista con molte più responsabilità. E quindi basta adesso tediarvi con queste cose. Comunque sappiate appunto che se usate Internet Explorer e vi hanno rilasciato una patch al volo è per questo problema qua. Sono cose di 10-15 giorni, quindi magari se siete bravi e aggiornati in automatico il computer, esso ha già fatto il suo. Vedete un po' voi che fare, insomma, a me alla fine mi tange abbastanza il giusto. Quindi altra musica e poi un nuovo articoletto, questa volta preso da Frack Magazine. I can't get a look. Che vi propongo è preso da un articolo piuttosto vecchio, in realtà, che mi era scappato. Era un po' di mesi che non guardavo il sito di Frack, che è questa fanzine che vi ho citato più volte, uno dei pochi organi, diciamo, di educazione e diffusione delle tematiche dell'hacking che sopravvivono nella forma ormai vetusta e antica di fanzine. E da un po' di tempo, in realtà, per non fare sostanzialmente un numero ogni 2 anni, pubblicano anche della specie di articoli. Man mano che arrivano, pubblicano un po' di articoli che vanno poi a costituire il numero successivo. Il 30 ottobre del 2018 hanno pubblicato, per l'appunto, un paper. Interessante se vi occupate di vulnerabilità dei kernel o se siete semplicemente dei curiosi, perché è un lavoro che sostanzialmente va a illustrare la scoperta di una vulnerabilità che interessa una componente, in questo caso che gestisce aspetti relativi alla grafica del kernel iOS, quindi roba della Apple. E La cosa è abbastanza interessante perché è unita a un articoletto su un blog, che poi magari vi metto, di un'azienda che si occupa di robe legate alla telefonia mobile. Evidentemente hanno un reparto di sicurezza e su questo, oppure hanno degli appassionati che lavorano su queste cose, non lo so. Fatto sta che l'articolo parte da lì e rimanda anche poi a Frack. Io ho fatto il giro contrario, nel senso che me ne sono accorto guardando Frack e poi sono arrivato al blog. E questa roba comunque è bella perché nello stile che hanno loro ti spiega passo passo dalla scoperta del bug fino alla scrittura dell'exploit. È quindi una roba piuttosto impegnativa, ma senz'altro interessante da studiare per chi ne ha voglia. E vi metto poi appunto il link. L'articolo si intitola Weaver Distraction Advice, Decoding an iOS Kernel Vulnerability. Anche questa vulnerabilità è stata già iscritta, diciamo, nel registro delle vulnerabilità. C'ha un proprio CVE, quindi è una roba riferibile probabilmente all'inizio dell'anno scorso, per quanto si legge anche dal blog. Però spiegata così è molto interessante, anche perché costituisce un documento buono sulla metodologia di lavoro utilizzata da questa persona. E quindi, se vi interessa questa roba, è senz'altro un articolo da leggere. Ecco, un altro po' di musica. Ora mi preparo per l'ultima parte della trasmissione, che appunto coinvolgerà un articoletto preso da Internazionale. Sarà in vero una lettura molto, non ve lo leggo neanche, probabilmente ve lo illustro solo, e poi se vi incuriosisce ve lo potete andare a cercare. Ed eccoci dunque al momento della cultura. No, anche finora abbiamo fatto della cultura, ma questa è una cultura più di carattere umanistico, più di senso rispetto a tutte le cose tecniche un po' strambe che vi ho detto buttandole lì fino ad adesso. Si tratta di un articolo apparso su un numero un po' vetusto, credo, di Internazionale. Io ce l'ho avuto da poco perché me ne sono arrivati in dono da qualcuno che è abbonato e dopo un po' se ne disfa, me li passa a me, quindi io li leggo in differita, sostanzialmente lo scopro le notizie mesi dopo. Comunque è del numero che va dal 12 al 18 ottobre 2018, che ha questo titolo abbastanza roboante, che è Come cambiare la storia dell'umanità, proprio in copertina. Sottotitolo è La disuguaglianza è considerata una conseguenza inevitabile della civiltà, ma molti studi smentiscono questa tesi e suggeriscono che un'alternativa è possibile. Così scrivono David Graeber e David Wengrow, che sono rispettivamente un antropologo che insegna alla London School of Economics e l'Internazionale dice è uno degli, lo classifica come uno degli ispiratori del movimento di Occupy Wall Street, è autore del libro Bullshit Jobs, che io non l'ho letto, forse dovrei leggerlo, e l'altro è invece un insegnante di archeologia comparata a sempre no, a una all'University College London. Quindi boh, due persone che sembrano che almeno un pochino sanno cosa stanno dicendo. E l'articolo è interessante perché anzianamente va a smontare un'impostazione che è quella più diffusa, ma anche nei libri degli antropologi, quelli famosi, che ne so, quello che scrive sulle catastrofi, non mi ricordo come si chiama, che è famoso, dai, tutti hanno letto i libri, quelli lì sulle catastrofi, insomma, anche questi vari, sì, Diamond, ecco come si chiama, Jared Diamond, sì, mi sembra di sì, che sia lui, ma anche in altre gente più antipatica, ad esempio Fukuyama, che a me è uno che mi sta molto antipatico, non so se ho dei pregiudizi, però a me mi sta antipatico. Comunque, insomma, in tutti questi anche patinati che hanno scritto i libri che poi sono diventati bestseller, hanno tutti questo approccio che vede la storia dell'umanità e muoversi da un passato di società ugualitarie, ma perché molto semplificate secondo loro, e che essenzialmente si occupavano di caccia e raccolta, fino a diventare sedentari, e lì nasce l'agricoltura, con l'agricoltura la proprietà privata, e da lì tutto quello che ne consegue, come storia, diciamo, quasi ineludibile del destino dell'umanità, cioè quasi come se non si potesse più tornare indietro, perché fatti quei passaggi, una teoria, diciamo, società di eguali non ci possono più essere, soprattutto, diciamo, nella nostra società che ormai è cresciuta enormemente come un grosso vortice, quindi sembra che la disuguaglianza sociale sia quasi una conseguenza della civiltà, cioè che debba essere così, che è sempre stato così e fine. Loro fanno tutta un'interessante rilettura invece della storia dell'umanità, ripartendo proprio da questi famosi cacciatori raccoglitori, e sottolineano come un sacco delle cose che diamo per scontate, in realtà, da un punto di vista delle ricerche moderne, non lo sono più così tanto. Cioè, classificano tutto. Scusate, sempre la tosse. Classificano tutta una serie di studi archeologici e di cose simili, nei quali si fa riferimento a civiltà molto antiche, ma nelle quali non c'è una vera traccia di questa estrema disuguaglianza. E loro delineano una società molto più fluida, in qualche modo mobile, cioè dove le forme di governo che si davano erano quelle in qualche modo più efficaci per quella particolare situazione, e per cui ci sono state società che sono state molto egualitarie, in cui non c'è traccia di questo estremo verticismo gerarchico, di questa disuguaglianza sociale, eccetera, ma anche nei grossi complessi urbani antichi. Quindi non è l'evoluzione della città, non è la conseguenza della disuguaglianza sociale, e viceversa. Non sono due cose che vanno per forza assieme. Ci sono, da quello che si capisce, ci sono segni che cioè, sostanzialmente gli esseri umani hanno saputo quando volevano organizzarsi in maniera anche decente, dove per forza non si deve dare per scontata la disuguaglianza sociale. E perché tutto questo è interessante? Perché rileggendo queste cose anche da un punto di vista di evoluzione della tecnologia, sarebbe interessante comprendere come tra magari 200 anni qualcuno riguardando indietro classificherà il nostro muoversi all'interno di questo mondo super mega iper tecnologico. Cioè, ora che lo stiamo vivendo, ne vediamo i vari aspetti, no? Cioè, si vede che ne so, quando si parla di internet, qualcuno lo intende come una possibilità di democratizzazione, diciamo di espansione. Del potere, quindi qualcosa che tende a prendere un potere che è verticale e a rimetterlo in circolo, no? E quindi in qualche modo tendere a qualche forma di uguaglianza sociale, almeno in alcuni ambiti, nello specifico internet, nell'applicabilità, cioè nella sua applicazione più stupida, ma anche più immediata, e veicola informazioni. Quindi la prima cosa di cui possiamo pensare è in che modo veicoliamo queste informazioni, no? E molto spesso c'è questa visione di questo internet come questo tipo di possibilità che era molto sponsorizzata più all'inizio, poi nel momento diciamo, dell'espansione di internet, che è comunque un fenomeno relativamente recente che possiamo ricostruire negli ultimi 40 anni e prima andiamo a quella che è la sua preistoria sostanzialmente, perché non. Comunque sarebbe interessante appunto comprendere alla luce della modernità, dove abbiamo visto appunto che questa cosa non è così, perché si è teso a ricostruire dei meccanismi estremamente gerarchici all'interno della rete, a scegliere, fare anche scelte tecniche che in qualche modo li supportano. In qualche modo li aiutano, scelte tecniche e anche in qualche modo economiche, nel senso che si tende a investire soldi verso certe cose e non verso altre, e questo è molto evidente nell'internet moderna. E quindi sarebbe interessante se tra 200 anni o 100 o forse anche meno, visto che è tutto molto accelerato, riguardare in questa prospettiva l'evoluzione della nostra società tecnologica e capire quali all'interno di questo mondo, che pure presenta degli aspetti estremamente verticistici, sono invece quegli aspetti che lì dentro hanno saputo creare in questa appunto storia molto fluida e molto di forme sociali che mutano. In quale modo e quali componenti abbiano spinto in un verso opposto. E quando faremo i conti tra parecchio tempo diciamo, di come è andata la cosa, cioè se internet è diventata una mostruosità utile sostanzialmente a controllarci tutti è meglio, oppure è andata in un altro verso, oppure le due componenti sono entrate in qualche forma di dialettica scontro, quale delle zone di influenza è prevalsa, se ce n'è una. E in che modo quelle comunità che tendono ad organizzarsi anche nella realtà in sistemi che tendono a ricostruire forme politiche sociali che tendono all'uguaglianza sociale anziché all'estrema disparità, in che modo hanno scelto le tecnologie da utilizzare, quali hanno utilizzato, se gli sono state utili o meno. È una cosa molto difficile da fare in fieri, nel senso che ora non si capisce, basta vedere quando si discute anche nei giri di movimento sull'utilità o meno dei cosiddetti social media, di se usarli o no, come usarli, diciamo, la critica a. Oppure diciamo, l'utilizzo tattico se possibile, cioè tutte queste, diciamo, queste tematiche da cui si capisce che non c'è chiarezza neanche in noi, magari questa chiarezza la potremo avere tra un po', chissà cosa diranno gli antropologi guardando indietro tra 100 anni di questo buglione di secolo che è iniziato insomma da una diciottina di anni, a me già mi fa venire il mal di testa. D'altra parte pure quello prima non scherzava, e quindi tant'è. E appunto questo articolo, se ve lo volete cercare, secondo me è possibile che ci sia online. Se lo trovo, metto il link, altrimenti la vostra biblioteca di fiducia, e magari c'è l'emeroteca che ha tenuto, e ve lo andate a vedere, fate anche un esperimento interessante. E non so quanti di voi vanno a richiedere i numeri vecchi dei magazine nelle emeroteche. Io l'ho fatto, penso 25 anni fa, e poi non ho più ripetuto l'esperimento, però è stato comunque una forma di crescita anche interiore nel relazionarsi con la burocrazia. E vabbè, e quindi niente, se il prossimo anno volete fare questa esperienza, leggere questo articolo, o se no leggetevi i libri di questi due signori. Probabilmente non sono idee che hanno scritto in esclusiva per questo numero di internazionale, magari ne hanno già parlato in altri loro scritti che io non conosco per mia ignoranza, ma prometto che colmerò questa diciamo questa mia lacuna. E con questo vi saluto perché ho parlato già a sufficienza. Vi do appuntamento a la prossima settimana, che sarà già nel 2019. Per quanto ce ne freghi, a me è abbastanza poco, però insomma, vi auguro una buona serata a tutte e a tutti, un altro po' di musichina e poi bobina come di consueto.